Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Thank you. Bambara Paccicicocò, tre grilletti sul Comò che facevano illazione sulla controinformazione, ma noi non ce ne frega un cazzo, questa è Radiazione, venerdì 19 dicembre, a diretta d'azione che come tutti venerdì prevede solo controinformazioni, le riflessioni, qualche provocazione, visto che ci continuano a chiamare sempre le solite persone, basta. Quindi la provocazione sulla Radiazione di casa, quindi ve la beccate. Radiazione, allora, dicevo, oggi controinformazione, ricordiamo subito gli indirizzi utili per la radio e per il sito. La mail è radiazione@autistici.org, dove potete mandare scritti, comunicati, mail, qualsiasi tipo di materiale volete che venga pubblicato sul sito di Radiazione. Ora, qualsiasi è un parolone, attenetevi sempre alle, tra virgolette, regolette, quelle sulle cose che verranno pubblicate e sulle cose che non verranno mai pubblicate su Radiazione. La mail la potete anche utilizzare, visto che c'è gente che ascolta le letture il lunedì, per mandarci qualche consiglio sui libri da leggere ogni lunedì con Marcello, quando ci alterniamo tra le letture e la controinformazione. Libri che, ricordo, non sono libri di testi anarchici, ma testi di narrativa che comunque hanno qualche tematica, bene o male, non pesiamo tutte le parole, bene o male qualche tematica affine anche con i temi che vengono proposti sul sito di radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina di download, tutto materiale che molti compagni, non solo italiani, ma diciamo che italiani poco, gli italiani tendono a vendere le idee molto spesso. Ora non generalizzo, però la buona parte di chi fa uscire libri e chi fa uscire CD e chi fa uscire altre cazzi e mazzi tenda sempre il ricavato a benefit, poi vediamo se è benefit, intanto le casse languono, le casse per i detenuti. Invece altri compagni dall'Europa e anche dal Sud America ci fanno arrivare materiale tipo libri, opuscoli, CD, tutta la roba che potete scaricare a 0 centesimi, tutto gratis, tutto non ha copyright, tutto si spera che una volta che lo mettete in circolazione il ricavato vada nelle casse per i compagni detenuti. Sul sito di radiazione potete anche riascoltare i podcast di tutte le dirette d'azione, c'è la pagina dedicata proprio ai podcast, là ci trovate tutte le dirette d'azione da 2 anni a questa parte, quindi vi potete fare benissimo 2 coglioni così, non ve li ascoltate tutte in una volta, altrimenti ci schifate. La radio trasmette sul server anarchia.net, come lo stesso server in cui viene ospitato il sito di Radiazione, server messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che ci ha aiutato, ci continua ad aiutare e ringraziamo sempre. Ora ci ascoltiamo un brano, prima di iniziare la diretta odierna, ci ascoltiamo un brano, loro sono RTPN, il brano è Blinded Terror, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la prima notizia di controinformazione. We'll be right back. E allora ora si passa alla controinformazione. Prima notizia della giornata, si va in Spagna. In Spagna, dove c'è stata una grossa operazione che ha portato ad arresti e perquisizioni in varie città, operazione chiamata Pandora, un'operazione che è nata da, almeno da quello che si è cercato di capire, è nata dagli attacchi per cui sono stati arrestati Monica e Francisco, i due compagni cileni accusati di aver attaccato due cattedrali, afferma comando insurrezionale Matteo Morral. Sono partiti da là per poi allargare il cerchio e ad arrivare all'operazione Pandora, facendo arresti e perquisizioni in tutta la Spagna. Leggiamo il testo: la legge Mordaza, norma approvata da pochi giorni, che incrementa in modo arbitrario i poteri giudiziari delle forze repressive, comincia a manifestarsi nella vita politica del paese. Dalle 5 della mattina del 16 dicembre cominciava l'operazione repressiva denominata Pandora contro il terrorismo anarchico. Le accuse dell'Audienza Nazionale riguardano diversi attentati contro filiali bancarie, tuttavia il comunicato della polizia non forniva maggiori dettagli su quali attentati e di che terrorismo si stesse parlando, riferendosi genericamente a un diffuso terrorismo anarchico. A quell'ora i Mossos de Squadra facevano irruzione nella Casa della Montagna, dispiegando un numero ingente di agenti, circa 300 poliziotti e un elicottero a visionare e illuminare dall'alto le operazioni. I Mossos procedevano alla chiusura delle strade adiacenti, effettuando arresti in questa zona di Barcellona. Da quel momento sono partite altre operazioni nell'Ateneo Libertario di San Andreu e in quello di Poble Sec, entrambi a Barcellona. Contemporaneamente, in altre 10 località catalane venivano invasi appartamenti e spazi abitativi. Per ora si ha notizia di 15 arresti, anche se la cifra cambia in base alla fonte. La maggior parte è a Barcellona, oltre ad un arresto domiciliare a Madrid. Gli arresti sono stati effettuati principalmente nel corso dei raid nelle abitazioni. La polizia ha sequestrato telefonini, computer e materiale cartaceo, inclusi alcuni libri presenti negli Atenei Libertari. Nella Casa della Montagna gli occupanti sono stati bloccati nella palestra della struttura mentre venivano perquisite le abitazioni dello spazio. Diverse iniziative sono state indette in Catalogna e in altre parti del paese in solidarietà con gli arrestati. Seguiranno aggiornamenti e comunicati. E questa era la prima notizia di oggi di controinformazione. Ora ci ascoltiamo prima un brano e poi dopo si torna qui, e invece di dare aggiornamenti dalla Spagna si danno aggiornamenti dall'Italia, aggiornamenti che riguardano i compagni rinchiusi nell'AS2 di Ferrara e compagno Marco Kamenisch, a cui è stata ancora una volta negata la libertà condizionata. Give it to me. E forse ce la possiamo fare a dare gli aggiornamenti dall'Italia. Ci sono un po' di problemi col microfono, ogni tanto il microfono se ne va, e quindi siamo costretti a registrare questa parte, una parte che non è andata in onda nella diretta di un'ora fa. Ora la sto registrando da solo, e quindi speriamo che ci riusciamo prima o poi, che il microfono vadi nella, cioè io il microfono razzo, poi ogni tanto se ne va a fanculo, si fa i cazzi suoi, si scoccia di starmi a sentire, quindi si ammutolisce, si mette da parte, si ammutolisce. Invece noi ora diamo gli aggiornamenti sul ho detto prima di, dell'ultimo brano, gli aggiornamenti in Italia, in realtà in Italia e in Svizzera, perché abbiamo sia aggiornamenti sulla S2 di Ferrara che aggiornamenti su Marco Kamenisch, compagno Marco Kamenisch. Allora, dalla sezione di alta sorveglianza S2 di Ferrara apprendiamo che non appena trasferiti Graziano e Francesco, passati in regime di alta sorveglianza in seguito alla riqualificazione del reato da parte della procura torinese con finalità di terrorismo riguardo all'attacco del cantiere TAV a Chiomonte, sono stati posti in isolamento e con divieto di incontrarsi sia tra di loro che con gli altri compagni già rinchiusi in sezione con condanne definitive. C'è Michele per l'operazione Brushwood, Adriano per una serie di sabotaggi nella zona dei Castelli Romani e Nicola ed Alfredo per l'azione contro Adinolfi, provocando la reazione dei compagni lì rinchiusi contro questa ulteriore restrizione. Le guardie ferraresi avrebbero voluto separare Alfredo e Nicolo ad Adriano e Michele, che fino ad allora non avevano restrizioni sia tra di loro che dai nuovi arrivati. Da quel momento, considerando che qualsiasi ulteriore restrizione nel già ridotto ambiente dell'AS2 di Ferrara comporta limitazioni nell'ora d'aria e nella socialità, i compagni hanno riottenuto l'area in comune per i 4 ristretti, oltre che quella in comune per i 2 nuovi arrivati. Normalmente in questi di questi tempi qualsiasi conflittualità nell'ambito carcerario dell'alta sorveglianza si risolve in rapporti che intaccano i giorni, ovvero gli sconti automatici di pena. Già è successo in AS2 sia a Ferrara che ad Alessandria e fa parte della strategia di controllo attuale in merito a cui i compagni continuano a non piegarsi. Seguiranno gli aggiornamenti su questa cosa, ce li faranno avere i compagni di Croce Nera Anarchica. Invece l'altro aggiornamento è sul compagno Marco Kamenisch, è stata rifiutata ancora una volta la libertà incondizionata al compagno Marco Kamenisch. La motivazione è sempre la solita, anche dalla Corte Suprema di Losanna: niente libertà condizionata per il compagno, perché non ha mai spostato di un millimetro le sue posizioni e non si è mai fatto addomesticare dalla carcere di Svizzera. Ricordo che Marco ha già scontato dal 2012 due terzi della pena e già lo scorso anno gli venne rifiutata la domanda di liberazione con la condizionale. Un abbraccio pieno di solidarietà e complicità va a Marco da parte di Radiazione. E questo era per quanto riguarda gli aggiornamenti sul fronte italo-svizzero. Se ce ne saranno ancora ulteriori, ovviamente li troverete sul sito di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono di Hardwire, il brano è Snuff Machine, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Fatal Morgano, Mind Control. Allora, ora si ritorna alla controinformazione. Prima, non nella cosa che abbiamo letto come ultima notizia quando riguarda gli aggiornamenti, ma quella ancora prima, si faceva riferimento alla collaborazione tra lo Stato cileno e lo Stato spagnolo per quanto riguarda il momento repressivo e la forzatura che stanno facendo questi due stati nei confronti dei compagni anarchici. Ricordiamo Francisco Solare e Monica Caballero, arrestati l'anno scorso e accusati per gli attacchi alle cattedrali di Madrid e Saragozza, in più un altro eventuale attacco che ci sarebbe dovuto essere, sarebbe dovuto avvenire in un'altra chiesa, non ricordo quale chiesa in particolare, e più l'appartenenza alla Federazione Anarchica Informale, il comando Matteo Morral, il comando insurrezionalista Matteo Morral non si è mai definito come cellula della Federazione Anarchica Informale. Questa è un'altra boiata, però va di moda la Federazione Anarchica Informale, i fronti rivoluzionari internazionali, quindi vai tutti dentro con la stessa accusa. Questo non giustifica le tesi di chi dice che per colpa di certi compagni poi la repressione si sfoga anche su di loro. Allora, dicevo, tutto questo papillo, come si dice a Napoli, per introdurre la prossima notizia, una notizia che mi arriva dai compagni di Noticias della Guerra Social, compagni cileni che tutte le settimane mi mandano notizie che poi trovate tradotte sul sito di Radiazione, notizie sia dal Cile ma dal Sud America in particolare, comunque molto improntate più sul Cile, e questa volta ci mandano sto testo che parla di un ordigno al carcere femminile che è stato trovato da un passante che l'ha trasportato e l'avrebbe trasportato alla metro. E poi circa le nuove manovre repressive in quella zona, sappiamo che stanno un po' calando la mano in Cile anche in seguito agli attacchi avvenuti al subcentro, in più altri attacchi che l'hanno preceduto. Allora, alle 7:10 un operaio trova una borsa in buone condizioni sul lato della Cárcel de las Mujeres e la direzione metropolitana della gendarmeria e decide di portarlo sul posto di lavoro. Una volta sul posto e guardando il contenuto della borsa, nota un estintore con un timer collegato. La guardia del cantiere allerta l'operaio sulla possibilità che si potesse trattare di una bomba, dopo aver discusso con l'operaio che voleva portarla a casa o venderlo, lo stesso decide di riportarlo al suo posto e avvisare la gendarmeria. Una volta riportata all'ingresso della caserma carceraria, la polizia rifiuta di ascoltarlo e lo tratta con il solito tono di arroganza e ignoranza, dicendogli di portare via da là quella borsa e il suo contenuto. Confuso, l'operaio decide di attraversare la strada e andare nei giardini centrali che dividono Avenida Vicuña Mackenna, e lasciando il contenuto della borsa sul lato di una colonna gigante della metro linea 5, molto vicino alla stazione di San Joaquín. Il giorno dopo, il 6 novembre, verso mezzogiorno, un giardiniere trova l'ordigno tra i cespugli dei giardini e avvisa la gendarmeria, che questa volta dà credito alla versione del giardiniere e chiama la polizia, che mette in sicurezza la zona con un ampio dispiegamento di uomini. Dopo la chiusura della zona, una squadra del GOPE posto con tute speciali, robot antibomba e veicoli speciali per ispezionare l'ordigno che non era esploso. Infine, dopo lunghe ore di operazione, il GOPE tenta di eseguire un'esplosione controllata e, non essendo stato in grado di disattivare completamente l'ordigno, ha dovuto trasportarlo con un veicolo speciale per farlo esplodere nella loro caserma. quanto, penso in una zona circostante la loro caserma, se lo facevano esplodere la loro caserma, saremmo stati tutti ben felici. Secondo la versione della stampa, sul posto sarebbe stato trovato un volantino con frasi tipo: questa non è un'azione terrorista e l'unico terrorismo è quello esercitato dallo Stato, tutto ciò senza mostrarlo e renderlo pubblico finora. Le menti febbrili dei portavoci del potere e la stampa parlano di un nuovo attacco anarchico alla metropolitana, ma questa volta presumibilmente con una piccola carica di polvere nera che avrebbe distrutto il pilastro della metropolitana provocando un deragliamento. Il sottosegretario degli interni Mahmoud Alioui ha invocato immediatamente la legge antiterrorismo contro chi sarà processato come responsabile. Con il passare del tempo hanno nascosto che in mani anonime avrebbero collocato l'ordigno esplosivo consistente in un chilo di polvere compressa in un estintore innescato da un timer nella mattina del 5 novembre nel perimetro immediato alla caserma della gendarmeria. A quanto pare un difetto del sistema elettrico ha impedito alla bomba di esplodere. La procura SUR, sarebbe la procura meridionale, autodenominata specialista nei casi di terrorismo, si è mostrata fiduciosa di risolvere il caso subito grazie alle telecamere della gendarmeria che potrebbero far luce sul fatto e i presunti autori. Poco dopo questa dichiarazione trionfale, i carcerieri dichiarano che questa telecamera non funzionava da 6 mesi, negando di aver buttato fuori l'operaio che era andato ad avvisarli del ritrovamento del borsone, anche se diversi testimoni e colleghi di lavoro dell'operaio hanno visto che l'uomo non era stato creduto, il quale poi ha lasciato l'ordigno al pilastro. La stampa ha scritto che se fosse esploso l'ordigno durante il trasporto si sarebbe Lanskron, il caso Lanskron lo ricordo, l'abbiamo letto nell'ultima diretta d'azione, per un altro attacco purtroppo è andato a male perché un ragazzo, un tossicodipendente tra l'altro poverissimo, aveva trovato sto borsone vicino a una caserma, se l'è portato via e praticamente a pochi isolati l'ordigno è esploso, il ragazzo è rimasto gravissimamente ferito e ustionato, è arrivato là la polizia, è arrivata tutta la gente del quartiere, la polizia ha fatto il cordone intorno al ferito e agonizzante in modo che il vicinato non potesse dargli aiuto. Nelle loro teste si trattava di un anarchico, invece poi alla fine è uscito fuori che questo era un poveraccio che all'inizio stava pure tutto fatto, tossicodipendente, ha trovato la borsa, pensava di aver trovato qualcosa di buono per lui, caso Lanskron. Invece, tornando a testo, l'azione viene rivendicata dopo poco tempo dalla banda Acrata Sebastian Noveslucci, chiarendo che l'intenzione è stata sempre la gendarmeria e non la metropolitana o i cittadini, affermando l'obiettivo era quello di attaccare e danneggiare materialmente la caserma della gendarmeria e rendendo vulnerabili i meccanismi di sicurezza dello spazio carcerario. Questo è il testo che ci hanno inviato i compagni dal Cile, i compagni di Noticias della Guerra Social, che un po' ci spiegano anche il livello di tensione che c'è in quei territori da qualche mese a questa parte, dicevo prima, in particolar modo dopo gli attacchi a Subcentro, che ripeto, basta criticare quell'attacco. Si è capito che i compagni hanno sbagliato, basta, non ne diciamo più niente, cioè hanno fatto un lieve errore, però comunque il lieve errore dei compagni che ha provocato anche 14 feriti è anche stato voluto dalla polizia, perché i compagni hanno avvisato con un po' di tempo in anticipo la polizia che c'era un ordigno a bordo della metropolitana, invece il coglione del capotreno ha preso il sacchetto e se l'è portato in fondo facendo esplodere l'ordigno e facendo così ferire 14 persone. Ora non è colpa del controllore, sicuramente un po' di accortezza in più in certe cose, però la polizia non si era per niente fatta vedere. Stessa cosa è capitata con il caso Lanscron che ho appena raccontato, e questa è l'ennesima, quella dell'operaio. E tutte tutte azioni in cui c'è uno spostamento dell'ordigno, gli ordigni hanno i piedi oramai, li posizioni da una parte, loro se ne vanno per cazzi loro, se ne vanno direttamente alla metropolitana, forse vogliono tornare indietro, ma non penso che vogliono andarsi a prendere la metropolitana. Gli ultimi due attacchi erano tutti e due ai danni della gendarmeria, quindi questa è la nuova tattica in Cile, cose che a noi ci riportano indietro di 30 anni nelle varie stragi non erano avvenute con queste modalità, tipo Piazza della Loggia, Piazza Fontana, là c'era direttamente il servizismo, segretismo. Invece ora ci sono degli attacchi, attacchi pure rivendicati, cioè c'è l'intenzione di fare certi attacchi, ma una volta che scoprono l'ordigno te lo spostano da una parte dove poi ti si può fare terra bruciata con la cittadinanza, perché poi alla fine andando a colpire la cittadinanza un po' i giornalisti, un po' la polizia, alla fine i compagni si ritrovano isolati e con la terra bruciata intorno. Questo era giusto per far capire un po' il livello di tensione che c'è nelle terre cilene da un po' di tempo a questa parte. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono di Algorithm, il brano è Synthesizer, e poi dopo si torna qui e ancora Controinformazione. We'll be right back. di Algorithm con il synthesizer. E allora abbiamo dato un bel po' di notizie di merda, vero? Oggi sì. E allora rifacciamoci la bocca parlando di un'azione avvenuta a Salonicco in Grecia, dove sono stati bruciati dei veicoli di una società di sicurezza. Auto di sicurezza che vengono bruciate in tutto il mondo, tranne in Italia. Vabbè, questo è un piccolo particolare. Leggiamo il testo rivendicativo. Forse a volte ci dimentichiamo che anche le auto di sicurezza, le guardie di sicurezza, quelle che girano di notte pure, sono colpevoli di essere sbirri. All'alba di mercoledì 10 dicembre, una volta si facevano, venivano fatte le rapine, si recuperavano le armi da loro. All'alba di mercoledì 10 dicembre, ora mi arrestano, tre veicoli appartenenti ad una ditta di sicurezza privata parcheggiati nella zona di Costantinopolitiki a Salonicco hanno preso fuoco. Solo poche ore prima di il Parlamento, per bocca del rappresentante governativo e del Ministero della Giustizia, ancora una volta con estremo cinismo, aveva posto il dilemma per cui l'interesse della sicurezza del sistema capitalistico andasse contro la vita di un rivoluzionario. Vabbè. Comunque, al grezzo spettacolo di brutalità del totalitarismo neoliberale si oppone la solidarietà tra chi combatte per la sua distruzione. Per cui abbiamo scelto, prendendoci il nostro turno, di attaccare uno dei principali componenti del mosaico di un complesso di sicurezza che ci soffoca. Speriamo, a partire dalla nostra umile dimora, di aver contribuito a far capire ai gentiluomini menzionati e ai loro simili che quando e per quanto a lungo loro sceglieranno di compiere i loro giochi politici sulla vita di un nostro compagno, come nel caso dell'anarchico in sciopero della fame Nikos Romanos, l'immagine di rafforzamento di legge ed ordine che auspicano ed invocano così spesso sarà una delle ultime cose in cui dovranno sperare. Dalla vittoria dello sciopero della fame dell'anarchico Nikos Romanos al blocco del funzionamento delle carceri di alta sicurezza e alla distruzione dell'ultimo carcere, un respiro profondo fino alla fine e oltre del capitalismo. E ricordiamo ancora una volta che il compagno Nikos Romanos ha terminato lo sciopero della fame perché gli hanno accordato le uscite dal carcere non da subito, all'inizio dovrà partecipare, cioè, ai corsi in videoconferenza, e poi dopo un tot di tempo potrà usufruire delle uscite dal carcere, però indossando un braccialetto elettronico, un braccialetto che qui in Italia ha avuto poca fortuna, perché praticamente è la prima volta che l'hanno sperimentato. Dopo tre ore un tipo si è dato alla macchia, speriamo funzionano così bene anche da quelle parti. Questa era la notizia bella della giornata, poi ce ne abbiamo ancora un'altra, però è lunga quella, cioè, quella c'è un testo bello lungo e va divisa almeno in due parti. Ora ci ascoltiamo un brano, poi ci prendiamo una pausa riflessiva di radioazione, e poi dopo finiamo con l'ultima azione. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è dei Signal Out 42 by My Army, e poi dopo si torna qui con le riflessioni di radiazione. Army. Be my army. Save my army. Save my army. Save my army. I need you to fight. You need me to win. I need you to fight. You need me to win. Be my army, sign out 42, ed ora passiamo al momento riflessivo, al momento provocativo no, perché stavolta la provocazione arriva da altre parti, quindi noi non ne parliamo, cioè, qua, uno non ne vorrebbe parlare, vorrebbe evitare, però puntualmente si viene tirato in ballo, si viene tirato in ballo e quindi automaticamente scatta la risposta, perché poi il materiale gira, le cazzate girano e le chiacchiere stanno a zero. Ma andiamo subito al succo. Proprio oggi mi sono imbattuto, sotto consiglio di qualche compagno, in un testo apparso su un giornalino dell'area anarchica. A dir vero, l'inizio prometteva bene all'inizio. Trattava di malattie, vaccini, case farmaceutiche e fino ad arrivare addirittura agli aztechi. Ovviamente il passaggio obbligato fa deviazione sul tema tecnologia. Anche qui prometteva bene, salvo il fatto che certe persone, io non definisco a priori e incondizionatamente compagni tutti gli anarchici, proprio non ce la fanno a non spalare merda nella loro lunga crociata demenziale ed ottusa. Da un testo che poteva essere interessante emerge tutto di un colpo la cloaca. Cloaca d'intestino perché altri portano avanti progetti per anni, mentre loro sono in continua metamorfosi di nomi da dare ai progetti, ai propri progetti. Ma ci credono nelle cose che scrivono? No. Perché tali persone sono sempre molto informate su quanto accade su siti e blog anarchici. I cavalieri senza macchia dell'antitecnologia, concetto su cui mi trovano pienamente d'accordo, ma solo dal momento in cui essi stessi lo mettono in primis in pratica, sono così antitecnologici che non sdegnano di guardare Bruno Vespa che si fa vaccinare in diretta. Gente che ha la miccia corta solo quando deve sputare su altri progetti, poi se uno di questi stessi progetti è porta bingo o tombola per rimanere in zona. Non metterò il nome del loro giornalino qui, perché loro sono puri, sono duri, anti-blog, anti-sito web, salvo poi rendere le uscite del loro giornalino scaricabili da qualche sito web, almeno fino a qualche tempo fa. Controllano perché fanno anche alcuni riferimenti, e allora? Fanno riferimento a qualcuno che sui blog anarchici si permette di dire come ci si comporta con gli infami. Ora, chi ha seguito Radioazione, chi qualche tempo fa in risposta anche a un testo che era uscito su informazione .info per quanto riguarda la storia degli infami a Milano, c'era qualcuno che si lamentava degli infami quando all'epoca ha difeso qualcuno che ha sfiorato l'infamia. Nel 2001, nell'occupazione di cui facevo parte, il TNT occupato, ci fu un caso di infiltraggio da parte di uno sbirro che, facendosi passare per anarchico, iniziò a frequentare la palestra del posto occupato. Quando lo sbirro venne scoperto, fu prima buttato fuori dall'occupazione e, una volta fuori, qualcuno andò a prenderlo fino sotto casa, spaccandogli un moschettone da 500 grammi sulla sua bella faccia di merda. Le conseguenze furono circoscritte ai 3-4 anarchici che abitavano al TNT, mentre qualcuno che ora si sente anche di scrivere a qualcuno che sui blog anarchici si permette di dire come ci si comporta con gli infami, si defilò nella propria casuccia al riparo. Stessa cosa quando è accaduto con i disobbedienti nel periodo di guerra tra noi e loro, compreso sgombero nel fine 2002 del TNT in tutta regola fatta dagli stessi disobbedienti. Come il grillo parlante di Pinocchio, si mettono appollaiati sulla trave al riparo per poi fare la morale. Ho detto mille volte che non difendo la controinformazione via web indiscriminatamente, e molte volte l'ho criticata, e forse sto perdendo tempo anche a scrivere due righe su questo ennesimo testo scritto per l'ennesima volta dalle stesse persone, ma non nello stesso giornale, perché ne cambiano uno al mese. Criticare per non fare nulla non serve a nulla, ma solo a far vedere che si esiste anche se si è aggrappati ad una fune ormai corrosa che scivola lungo uno specchio. Parlare di Vespa ed altri sciacalli della TV, writers o altri argomenti sociali, mentre nel mondo ci sono compagni in galera, repressioni forti, scioperi della fame come quello del compagno Nikos Romanos che ha rischiato la vita e di cui non ho letto nemmeno una riga sul giornalino, azioni contro faccia a faccia si vuole creare, qualcuno spieghi a queste persone che chi fa controinformazione via web non pensa di fare di farne un'arma per l'insurrezione, ma solo di tradurre in modo più veloce testi di compagni detenuti e di azioni dirette in terre non italiane che una volta arrivavano col contagocce. Azione via web. Questo è lo scopo dei siti e dei blog anarchici, nessun altro. Cene benefit, presentazioni di libri, concerti benefit o cineforum e altre iniziative allo stesso modo non fanno degli organizzatori degli insurrezionalisti allo stesso modo dei siti e dei blog. Un sito, un blog sono un mezzo per la propaganda scritta, niente in più e niente in meno rispetto ai giornali in carta. Noi utilizziamo internet e voi le poste italiane contando di francobollo del monopolio di Stato per spedire i giornali. Parlate di coltan, minerale per costruire tra l'altro i processori dei nostri PC, e vi dimenticate dell'Amazzonia che non esiste più per creare tanta carta su cui scrivere certe stronzate? Il solito discorso che il cartaceo crea dibattito faccia a faccia non appartiene per tutti i progetti cartacei e sicuramente non per quello in questione in questo testo. Faccia a faccia, quando ci sono stati, ho visto il silenzio dei cavalieri dell'antitecnologia. Eppure, in un ultimo dei dibattiti faccia a faccia c'erano due siti, la Reazione e Croce Nera. Tra l'altro la Croce Nera, i compagni di Croce Nera il sito lo fanno per la controinformazione veloce e il giornale ci scrivono gli approfondimenti, le lettere dei compagni detenuti. Quindi in quell'occasione ho visto il silenzio. Quindi un'ennesima bugia, giusto per distorcere la propria figura in puri e duri. Quindi le chiacchiere stanno a zero. Poi sul testo di Radiazione ho messo un asterisco, una nota a Bruno Vespa per i compagni non italiano, il notissimo giornalista che da 50 anni fa dittatura e morale televisiva. Il testo è firmato da me, sottoscritto Radiazione, metà dicembre del 2014. Non aggiungo nulla perché per me... questo continuo criticare la controinformazione via web veramente sta diventando a livelli nauseanti, poi viene fatta sempre dalle solite persone che una volta si chiamano così, una volta si chiamano colì, una volta si chiamano in questo modo, una volta sono sempre i soliti tre o quattro che scrivono le solite stronzate, pensando che chi fa un progetto di controinformazione via web nella sua testa sta mettendo una bomba, sta facendo l'insurrezione, sta facendo chissà cosa. Niente di tutto questo, al limite si dice la nostra, al limite con la voce ci si mette la voce anche su Radiazione, altri compagni ci mettono i siti, i blog come per esempio Culmine, lasciamo perdere alla finaccia che ha fatto Stefano Gabriele Fosco, ma Elisa ci ha messo la faccia, ci hanno messo gli anni di galera e altri siti anarchici in Sud America, non dimentichiamo gli arresti di siti spariti che non si sa che fine hanno fatto, però si sa i compagni che fine hanno fatto. Quindi chi fa i siti e i blog di controinformazione tanto criticato da questa gente che non fa altro, i faccia a faccia sono i loro faccia a faccia, sono settarismi veri e propri, perché stanno sempre tra di loro a giuciare e non hanno un cazzo di rapporto e fanno faccia a faccia con nessuno, a meno che ogni tanto arriva qualche compagno, allora si aprono oltre la cerchia. Chi fa siti e blog fa controinformazione, fa solo questo, rende agevole la vita a chi non capisce l'inglese, non capisce lo spagnolo, non capisce il tedesco, non capisce l'inglese, non capisce il croato. Questo si fa con i siti di controinformazione, si fa viaggiare più velocemente, perché purtroppo internet è il mezzo di merda, e questo sono pienamente d'accordo anche io, ci permette di far viaggiare la notizia più velocemente. Quindi un compagno arrestato oggi in Cile, domani si viene a sapere in Italia. Una volta un compagno arrestato in Cile si veniva a sapere dopo 3, 4, 5 mesi, al primo giornale che usciva. Si recuperava la notizia, bene, se non recuperava la notizia si veniva a leggere: un anno fa è stato arrestato un compagno in Cile. Sti cazzi, ora abbiamo sto mezzo, purtroppo c'è, lo utilizziamo e cerchiamo di far correre più velocemente la controinformazione. Questo è lo scopo della controinformazione via web, nessun altro. Non si fanno rivoluzioni, non si fanno insurrezioni, non si fa un cazzo di niente, ci si fa solo un culo così, un mazzo così, intere giornate, specialmente in Italia, perché poi in Italia traduciamo tra me, la compagna croata, e i compagni di Croce Nera Anarchica, una quantità infinita di testi, e poi sentissi buttare la merda da quattro coglioni, ci siamo rotto il cazzo. Quindi questa era per quanto riguarda la risposta definitiva, e ora chiudiamo qui l'argomento e non lo riapriamo più, come non ho più riaperto discorso TAV, come non ho più riaperto discorso su altre cose che ho detto, appunto, basta, non se ne parla più, perché alla fine siamo qui, cioè si sta sempre qui a rispondere sempre alle solite persone ottuse, i crociati dell'antitecnologia, come ho detto io. Che poi la mettessero in pratica l'antitecnologia, non è così, perché stesso loro usano la tecnologia, perché stesso loro sono stanno con la testa nella TV tutti i giorni, perché se prendi il numero del giornale da dove esce sto brobrio di testo, no, il testo era bellissimo, solo che a una certa, proprio il rodimento di fegato ti deve far uscire quella cosa sulla controinformazione anarchica. Allora inizia a vedere che parlano di Bruno Vespa, Milena Gabanelli, parlano della TV, parlano di questa. Ma che stiamo a dire? Child. per Liederkranz il brano era Cretin. E non aggiungo altro, come diceva Peppino De Fritto, ho detto tutto e qui siamo andati oltre, io lo sapevo, se mettevo mano a quel testo poi si andava molto oltre e si faceva anche un po' tardino, perché ricordo la diretta d'azione, quella del venerdì, non dura le due ore della diretta del lunedì, ma dura un'oretta e venti, un'oretta e mezza, quindi siamo agli sgoccioli, ci conserviamo il testo lunghissimo, perché ormai c'ho pure la gola un po' secca, sto da solo, la compagna croata mancherà per qualche settimana nelle dirette, quindi toccherà leggere tutto a me. Quindi ricordiamo l'appuntamento per l'azione, quella in Grecia la leggeremo, quella col testo lungo che volevo dividere in due parti, la leggeremo nella prossima diretta. Prossima diretta, per l'appunto, ricordiamo che non andrà in onda lunedì 22 dicembre, bensì martedì 23 dicembre, la spostiamo di un giorno la diretta, quella con la controinformazione, ma soprattutto le letture. Ricordo che per quanto riguarda le letture, stiamo leggendo come introduzione alla diretta, si parte sempre con A013, il romanzo, chiamano romanzo, scritto da me, che dovrebbe uscire appena sarà possibile, insieme al CD allegato, con sarebbero musiche che fanno da sottofondo al romanzo, dovrebbero uscire un progetto benefit per i compagni detenuti, non si sa quando, stiamo cercando la soluzione più economica per farlo uscire, anche perché si tratta di un libro e di un CD, non un opuscolo, un libro, 250 pagine, quindi sarà dura trovare l'occasione. Invece con Marcello stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergius Piasecki, storia di Dritti e di Merli, dal 45 al 50, nel periodo 45-50 in Russia. Quindi la diretta l'ho detta, verrà spostata a martedì 23, solito orario, stessa spiaggia, stesso mare. Ora ci ascoltiamo il jingle e con questo vi do l'appuntamento a martedì ore 17, ore 15:45, per chi vuole ascoltare la playlist musicale con gli ultimi 10 minuti in cui è dedicata all'ultima lettura di Nessuno ci salva della puntata precedente, così non facciamo riassunti. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.